Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. ...158.000 metri di pellicola girati, di cui 6.800 effettivamente montati, 97, 2.400 comparse, 5.000 abiti confezionati appositamente, 13 nomination e 10 Oscar vinti. È con questi numeri che Via col vento diventa uno dei film più importanti della storia del cinema. Reggere forte, non respirare. Dammi la colazione di Miss Rosella. Riportala in cucina, non la voglio. Oh, sì, tu mangiare, fino ultimo boccone, capito? Ho detto non la voglio! Mettimi il vestito, è già tardi. Che vestito ti metti? Quello! No, quello no, essere troppo sgollato per pomeriggio. Io andare a dire tua madre. Se tu lo dici alla mamma, non mangio affatto. Stati Uniti d'America, Georgia, 1860. La giovane e capricciosa Rossella, figlia di un ricco piantatore di cotone, vive con la famiglia nella bella tenuta di Tara. È carina, vanitosa, spiritosa e la corteggiano tutti. Ma lei ama il cugino Ashley, che però si sposa con Melania. Allora Rossella, per ripicca, diventa la moglie del fratello di Melania che muore subito in battaglia nella guerra di secessione appena scoppiata. Vedova, Rossella accompagna Melania, che adesso è incinta, ad Atlanta. Le due vengono messe in salvo dal saccheggio nordista della città da Rhett, un fascinoso avventuriero in cerca di fortuna. Quando la guerra finisce, Rossella si prende a cuore il compito di risollevare la proprietà di Tara, distrutta dai saccheggi e oberata dalle tasse. Ha urgente bisogno di soldi e per ottenerli in fretta sposa Frank, ricco proprietario di una segheria. Frank viene ucciso e Rossella torna vedova una seconda volta. È ancora innamorata di Ashley, ma sposa Rhett, che nel frattempo, attraverso una serie di speculazioni nel corso della guerra, si è arricchito. Il matrimonio tra i due è complicato, hanno una figlia, ma la perdono in un incidente e dopo la fine di una seconda gravidanza, Rhett, che non si è mai sentito amato, decide di abbandonare la moglie. Rossella resta sola ancora, ma stavolta è decisa a cambiare. Dopotutto, domani è un altro giorno. A Charleston, torno a casa mia. Ti prego, portami con te. No, ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo. No, so solo che ti amo. Questa è la tua disgrazia. Oh, Red! Red! Red! Red! Se te ne vai, che sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio. Non voglio perderlo, non voglio. Ci deve essere il modo di ricondurlo a me. Oh, non posso pensarci ora, se no divento pazza. Ci penserò domani. Apoteosi del divismo e del fast hollywoodiano, opera mastodontica ma contemporaneamente di alto valore artistico, Via col vento è considerato all'unanimità da pubblico e critica uno dei più grandi film di tutti i tempi. Nella lista delle 100 pellicole americane fondamentali, Via col vento figura al quarto posto dopo Quarto potere, Casablanca e Il padrino, e in ogni classifica prodotta da riviste e siti di settore compare sempre nei primi posti. Inserito per la conservazione in forma digitale nel prestigioso archivio National Film Registry, ha incassato dal suo debutto sugli schermi nel 1939 qualcosa come 191 milioni di dollari. Tutto questo comincia con un libro. Il titolo è lo stesso e l'autrice si chiama Margaret Mitchell. Margaret Mitchell. Till I get my fill, and I hope when I get old I don't sit around and think Atlanta, la capitale dello stato della Georgia, sud-est degli Stati Uniti, conta quasi 600.000 abitanti e ospita due aziende celebri nel mondo, quella della Coca-Cola, che qui è nata, e quella dell'emittente TV CNN. Città di Martin Luther King, paladino dei diritti dei neri e del regista Spike Lee, ha vissuto nella sua storia forti contrasti tra gli abitanti bianchi e quelli di colore, che per decenni hanno convissuto su fronti opposti, riconducibili ai ruoli di padroni e schiavi. Margaret Mitchell, l'autrice di Via col vento, viene alla luce qui, l'8 novembre del 1900, vicino alle piantagioni del Sud. Nel libro, come nel film, la scena madre racconta proprio l'enorme incendio che durante la guerra di secessione americana rade quasi al suolo quella che ai tempi è poco più grande di una cittadina. Margaret è la seconda figlia di Eugene Mitchell, uno dei più importanti avvocati di Atlanta, e di Maybelle Stevens, una donna profondamente idealista, impegnata nel sociale, brillante e vivace. È lei a trasmettere alle sue ragazze un atteggiamento aperto e femminista, tanto che Margaret, fin da piccola, vive come un'importante missione combattere l'ambiente maschilista e intollerante in cui è costretta a crescere. Questa è la solita disillusione maschile nello scoprire che una donna possiede un cervello. Peggy, così i familiari chiamano Margaret affettuosamente, nel 1906 assiste in prima persona a un evento terribile. I bianchi della città, che ancora non si era assegnata ad aver perso la guerra di secessione, danno il via a una violentissima rivolta contro i lavoratori neri. Capeggiati dalla furia razzista del Ku Klux Klan, i rivoltosi devastano Atlanta, uccidono alcuni neri e bruciano una dopo l'altra tutte le loro abitazioni. Peggy è piccola, ha soltanto 6 anni, ma queste immagini resteranno per sempre un ricordo nitido nella sua testa. Potendoselo permettere, perché ha alle spalle una famiglia di antica tradizione, Margaret studia in una scuola privata. Non è una allieva modello, fa quello che basta per prendere la sufficienza. In compenso è simpatica, chiacchiera con tutti e ha ereditato da sua madre un'arguzia che le permette di dare risposte sorprendenti. Rivela di avere doti da scrittrice quando si occupa dei testi per le recite e con la spinta della sua adorata mamma Maybelle scrive brevi racconti emozionanti. Il mio punto di riferimento è sempre stata mia madre. È da lei che ho imparato che una donna può essere libera e forte tanto quanto un uomo. È lei che mi ha sempre dato fiducia, mi ha spronata a essere me stessa, proprio come lei aveva sempre fatto. Non si può dire altrettanto di papà. Eugene è un uomo chiuso, vecchio stampo, maschilista, che non approva il modo di fare di sua figlia. Vorrebbe che fosse una bambolina zitta, bella, condiscendente, in poche parole perfetta da sposare. Invece Margaret non è così. Non si può dire che si comporti da maschiaccio, ma di certo non è vezzosa come le sue coetanee. È per questo che, con grande disappunto del signor Mitchell, i rampolli di Atlanta non la corteggiano. Preoccupato che possa rimanere zitella, l'avvocato bacchettone, vagamente dispotico, dopo avere a lungo discusso con sua moglie, dice a Peggy di fare le valigie per andare a studiare al Washington Institute, un rigoroso convento. Succede poi che nella vita di Margaret arriva il grande amore. Lui ha qualche anno più di lei e allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale è costretto ad arruolarsi nell'esercito. Clifford Henry non farà mai più ritorno dal fronte e la sua fidanzata scoprirà solamente che è morto in Francia. Nonostante la difficile convivenza con suo padre, Margaret Mitchell non è felice di lasciare casa sua per stare chiusa in un convento. E così, dalla sua piccola stanza al Washington Institute, scrive lunghe lettere a sua madre in cui la prega di intercedere per lei e farla uscire da quella specie di prigione. Maybelle fa di tutto per convincere il suo burbero marito. Non sopporta di immaginare la sua bambina sola e infelice. Sogna per lei un grande futuro da donna libera ed emancipata. Dopo svariate discussioni, Margaret può partire per il prestigioso Smith College di Northampton, Massachusetts, dove scopre di avere una grande inclinazione per gli studi letterari. Stare lì mi piaceva. Avevo finalmente trovato la mia dimensione e così ho potuto ascoltare quella che era la mia vera natura. Ho cominciato a leggere e scrivere come mai avevo fatto prima. Nel 1919 le cose prendono una brutta piega, fino a precipitare. A Margaret arriva un telegramma che annuncia le pessime condizioni di salute di sua madre, che è stata colpita da un'epidemia di febbre spagnola. Lei, che la adora, è disperata. Piange giorno e notte, vorrebbe starle vicino, non mangia, sente che la sua vita non avrà più senso senza il suo modello di vita. Ma la situazione è incontrollabile e Maybelle Stevens muore, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore delle sue figlie. Il signor Mitchell decide che ora che sua moglie non c'è più, c'è bisogno di una donna in casa. Ed è così che il sogno di Margaret di studiare e laurearsi viene stroncato, senza possibilità di appello. Dear darkness, dear, I've been your friend many times. Nonostante l'ordine di suo padre di lasciare gli studi per tornare a casa, Margaret Mitchell non abbandona il suo sogno. All'università ha scoperto che le piace scrivere e a 22 anni incomincia a collaborare con vari giornali locali. Non sono molte le donne che lavorano. Per molti in questa zona tradizionalista e chiusa, quelle che lo fanno sono addirittura delle poco di buono. Ma lei non importa. Ora che sua madre non c'è più, vuole più che mai portare avanti i suoi preziosi insegnamenti sull'emancipazione femminile. Per l'Atlanta Journal Sunday Magazine intervista personaggi famosi, il più celebre dei quali è Rodolfo Valentino, e scrive brevi biografie dei generali georgiani della guerra di secessione. Intanto si innamora e sposa Berrien Kinnard Upshaw, dispotico come suo padre, ma molto più psicolabile e pericoloso. Il matrimonio dura 10 mesi. Poi, mentre molte altre donne avrebbero taciuto e sopportato, Margaret molla il marito senza troppe spiegazioni. Per fortuna me ne sono accorta in tempo. Non avrei potuto continuare a vivere con un uomo così. Berrien era violento e anche losco. Faceva il bootlegger, trafficava whisky clandestinamente. Lo facevano in molti in pieno proibizionismo, ma non faceva per me. Papà le diceva sempre che aveva paura che rimanesse zitella. E invece Margaret piace molto agli uomini. Dopo il matrimonio fallito, lascia passare 4 anni e sposa John Marsh, agente pubblicitario, ex giornalista e testimone alle sue precedenti nozze. Con lui finalmente le cose vanno a meraviglia. È attento, la rispetta. E a differenza di molti uomini che scelgono mogli remissive, è fiero di avere al suo fianco una compagna così moderna. Margaret Mitchell un giorno ha un piccolo incidente. Appoggia male un piede e si sloga a una caviglia. Le fa molto male, non riesce a camminare, dunque è costretta a stare in casa a riposo. Non è una a cui piace stare ferma a far niente, soprattutto dopo le prime settimane sente l'esigenza di rendere produttiva la sua degenza che, come le ha detto il medico, dovrà curare per qualche mese. Allora prende un voluminoso blocco di carta e, per non morire di noia, inizia a scrivere la bozza di un romanzo. Ci lavora per 3 anni. Solo il marito e pochi amici ne sono a conoscenza e, quando lo finisce nel 29, decide di chiuderlo in un cassetto e non farlo pubblicare. Sappiamo però che già qui è tratteggiata la figura principale di Via col Vento. Si tratta di Scarlett O'Hara, che in Italia conosciamo come Rossella, una donna ribelle, appassionata e testarda proprio come lei. Anche lo sfondo verrà poi sviluppato nel suo futuro capolavoro. Siamo in Georgia prima, durante e dopo la guerra di secessione. Margaret scrive di quello che è e di quello che ha vissuto. Credo che sia naturale per uno scrittore partire da se stesso. E io, per descrivere Scarlett, sono partita da me. Volevo dare l'idea di una donna libera, anche un po' capricciosa, ma testarda, indipendente, non una donna a cui va sempre bene tutto. La storia è fatta di alti e bassi, come la vita. In America, dopo il periodo buio della Grande Depressione, l'economia finalmente rifiorisce, dando il via all'aumento della produzione e dei consumi. Si vende di tutto e si vendono molti libri che fino a poco tempo prima erano considerati un bene superfluo, visto il bisogno di comprare prima di tutto i generi di prima necessità. Il signor Latham, talent scout di una famosa casa editrice, ha ripreso a viaggiare in lungo e in largo per gli Stati Uniti in cerca di scrittori in erba da pubblicare. Come prima destinazione, più per casualità che per scelta programmata, si dirige proprio ad Atlanta, dove qualcuno che ne è venuto a conoscenza gli parla proprio del manoscritto di Margaret Mitchell. Più di 1000 pagine chiuse in 2 cartelloni di cuoio. Non si sa esattamente cosa invogli Latham a leggere questa montagna di fogli, eppure lo fa. Riga dopo riga si appassiona alla storia romantica di Scarlett O'Hara, sullo sfondo delle piantagioni della Georgia. E quando arriva alla scritta The End, gli dispiace che tutto sia finito. Quello era il mio lavoro, ma ci sono state poche volte in cui un libro mi ha coinvolto così tanto come il manoscritto della Mitchell. Non sapevo nulla di lei, solo che era una giornalista. Riuscivo però a immaginarmela un po' come la signorina O'Hara, testarda e appassionata. L'intuito da talent scout di Lydam non si sbaglia. Contatta immediatamente l'autrice per farle i complimenti e quando la incontra scopre la donna che si immaginava. Meno vezzosa di Rossella O'Hara, ma determinata e di carattere proprio come lei. Lydam è entusiasta e propone a Margaret Mitchell un contratto. Quasi $500 come anticipo, il 10% di utili sulle prime 10.000 copie vendute e il 15% sul resto. Margaret, soddisfatta ma cinica, accetta l'offerta, ma più che pensare a grandi risultati, spera di coprire almeno i costi. Ancora non può sapere che il suo Via col vento sarà il suo passaporto verso l'immortalità. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1936 e ad Atlanta, Georgia, una giovane Margaret Mitchell sta per pubblicare il suo primo libro. La storia è un'epopea di un migliaio di pagine che racconta la vita di Scarlett O'Hara, una signorina di buona famiglia che si innamora, soffre, lotta e difende la sua proprietà sullo sfondo della guerra di secessione americana. Margaret ha scritto il romanzo, un potente affresco storico melodrammatico, e dopo 3 anni di lavoro l'ha chiuso in un cassetto, finché il talent scout di una casa editrice l'ha letto e ha deciso di pubblicarlo offrendole un anticipo e una percentuale sulle vendite. Il titolo è preso da un verso del poeta Ernest Dowson, Via col vento, e unisce alle vicende dei protagonisti la tragica realtà della storia americana vista dalla parte dei sudisti. Ho accettato l'offerta dell'editore perché fino a quel momento non pensavo nemmeno di pubblicarlo. In realtà non ci credevo molto. Speravo piuttosto di riuscire almeno a rientrare con le spese. Mi ero data un margine. Mi auguravo, senza sperarci troppo, di vendere 500 copie. Via col vento viene pubblicato il 30 giugno 1936 e a differenza delle previsioni pessimistiche dell'autrice, nelle prime 4 settimane vende ben 180.000 copie che diventano 1 milione dopo 6 mesi, rimanendo in vetta alle classifiche dei bestseller per 20 mesi consecutivi. Il successo è davvero travolgente e i media cominciano a chiedersi chi sia questa Margaret Mitchell dalla cui fantasia il romanzo è uscito. Tra interviste, premi e tributi più o meno importanti, nel 1937 la scrittrice vince il prestigioso premio Pulitzer, mentre l'anno dopo è addirittura candidata al premio Nobel per la letteratura. Rossella O'Hara non era una bellezza, ma raramente gli uomini se ne accorgevano quando, come i gemelli Tarleton, subivano il suo fascino. Nel suo volto si fondevano in modo troppo evidente i lineamenti delicati della madre, un'aristocratica della costa, oriunda francese, con quelli rudi del padre, un florido irlandese. Ma era un viso che, col suo mento aguzzo e le mascelle quadrate, non passava inosservato. Gli occhi verde chiaro, senza sfumature nocciola, ombreggiati da ciglia nere e folte, avevano gli angoli volti leggermente all'insù. L'arguzia di Hollywood non può lasciarsi sfuggire una trama così potente, e tantomeno una figura, quella di Rossella, così nuova rispetto a come solitamente vengono rappresentate le donne nel cinema. Lungimirante, con l'intuito di chi già vede moneta sonante, si presenta un giorno dalla Mitchell un produttore cinematografico. Vuole comprare i diritti del libro e farne un film. Margaret fa molta resistenza e si rifiuta di partecipare alla stesura della sceneggiatura, così come alla scelta del cast. Ma il produttore è così sicuro di sé che la convince. Il suo nome è David O. Selznick. David O. Selznick. Non potevo lasciarmi sfuggire via col vento. Sapevo che sarebbe stata una bomba. Se tutto quel successo arrivava da un libro, figuriamoci cosa avrebbe potuto fare un film. Era la mia scommessa. Ma ero già certo di vincerla. Sky. Folti capelli in nero corvino, volto paffuto, occhiali tondi con delle sottilissime bacchette dorate che appoggiano sulle orecchie. Questo è David Selznick quando si presenta da Margaret Mitchell per convincerla a vendergli i diritti del suo romanzo Via col vento. Ha soltanto 2 anni meno di lei, essendo nato nel 1902, ed è cresciuto a Pittsburgh, Pennsylvania, che già dai primi anni del XIX secolo è una delle più importanti città industriali del mondo, grazie alla sua vicinanza a importanti giacimenti di carbone. È inutile ipotizzare nomi che siano la versione estesa di quella O puntata che sta tra David e il cognome, Selznick. Semplicemente questa lettera è stata messa da David, che fin dagli inizi della sua carriera ha voluto distinguersi da un suo zio che aveva il suo stesso nome ma che lui non poteva sopportare. La scelta è caduta sulla O per una questione di suono e ogni fonte che riporta Oliver come secondo nome è quindi errata. David O. Selznick all'anagrafe è David Selznick. Nel corso della mia carriera, ogni volta che incontravo qualcuno di nuovo, mi chiedeva di quella O tra il mio nome e il mio cognome. Io a volte mi divertivo a lasciare il mistero. Altre volte dicevo la verità, che l'avevo messa per differenziarmi da un mio zio antipatico. Il signor Lewis Selznick, padre di David, è un gioielliere a cui si affidano molte ricche signore della città. Ma nel 1912, sotto proposta di un suo amico che lavora agli studios, molla il suo negozio ed entra nel cinema, fino a diventare general manager della Universal. Ecco perché David può entrare a Hollywood dalla porta principale, proprio come suo fratello Myron. Entrambi vogliono seguire le orme di papà. Quando Lewis Selznick, ormai anziano, si ritira, i suoi figli, che da lui hanno imparato ogni segreto, siedono ai vertici delle più importanti case di produzione: Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount e RKO. Per quest'ultima David produce una 20 di film, tra cui nel 1933 il colossal King Kong. Kong is climbing the Empire State Building. He is still carrying Ann Darrow. That is all. That licks us. There's one thing we haven't thought of. What? Airplanes. If he should put Ann down and they can fly close enough to pick him off without hitting her, you're right. David Selznick non manca una festa in questi anni sfavillanti della Hollywood dorata. Il suo lavoro va a gonfie vele ed è a contatto con i protagonisti del periodo. Inoltre, il suo intuito da talent scout gli fa riconoscere una futura star a distanza di chilometri, come succede con il cantante ballerino Fred Astaire. Alla MGM realizza poi titoli diventati celebri come Pranzo alle 8 con Gene Harlow e John Barrymore, Viva Via e 2 pellicole tratte da romanzi, David Copperfield e Anna Karenina, con la grande diva Greta Garbo. Hai fatto esattamente ciò che ti avevo pregato di non fare. Ti sei comportata agli occhi del mondo in modo del tutto sconveniente. Mi hai reso ridicolo e questo non intendo tollerarlo. O forse mi sono sbagliato nell'interpretare in un certo modo la tua condotta. Non ti sei sbagliato. Cosa intendi dire? Non ti sei sbagliato. Io lo amo. David Selznick fa la sua gavetta a fianco di suo padre e ne segue le orme con successo, diventando un grande produttore per le major più importanti dell'epoca. Tuttavia, arriva un giorno in cui si guarda allo specchio e si rende conto che non ha niente che gli appartenga davvero. Ha fatto tanti film, molti dei quali famosi, ma può dire di avere costruito qualcosa partendo da zero? Ecco perché nel 1936 fonda la Selznick International Picture e ne assume la presidenza. Sa perfettamente che è difficile competere con le enormi case di produzione, ma crede molto nel suo progetto. Ci ha messo i soldi, ci ha messo il coraggio. Ora non resta che trovare una storia da raccontare. Via col vento, già dalla prima settimana di uscita, è un successo straordinario. Margaret Mitchell, la sua autrice, non avrebbe mai immaginato quando l'aveva scritto che arrivasse a vendere 1 milione di copie in 6 mesi. Eppure la gente aveva cominciato ad amarlo, a seguire con coinvolgimento per centinaia di pagine intense le avventure di quella Rossella O'Hara, eroina romantica e allo stesso tempo carattere di ferro. David Selznick ha troppa esperienza per lasciarsi sfuggire questa storia. Contatta Margaret Mitchell e organizza un incontro per parlare di una trasposizione cinematografica del libro. Lei all'inizio si fa una risata, rifiuta con gentilezza. Poi, di fronte all'insistenza di Selznick, è costretta a prendere la proposta sul serio. Ma la sua decisione non cambia. Via col vento era il mio romanzo. Era la mia storia e non volevo cederla a nessuno. Sentivo che se l'avessi lasciata andare non sarebbe più stata davvero mia. Ho detto a Selznick che non avrei partecipato alla sceneggiatura e nemmeno alla scelta del cast. Quindi non se ne faceva nulla. Ma Margaret Mitchell non ha fatto i conti con David Selznick. Quest'uomo seduto di fronte a lei, diretto e sicuro di sé, sta per cambiare il destino di entrambi. Oh, Rossella, non posso vivere senza di lei, non posso. Ogni mio bene se ne va con lei. L'amate davvero, allora? È il mio unico sogno. Che non sia stato distrutto dalla realtà. Sogni, solamente sogni. Mai del buon senso. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1937 e il produttore David Selznick, a capo della sua omonima casa di produzione, ha appena contattato la scrittrice Margaret Mitchell per comprare i diritti del suo romanzo. Via col vento non è un libro qualsiasi, lunghissimo, appassionato, coinvolgente, ha già superato il milione di copie vendute e reso celebre la sua autrice che si appresta a ricevere addirittura il premio Pulitzer. Forse è per questo che con uno slancio di orgoglio sulle prime rifiuta di fare della sua opera un film. Ma la tenacia di Selznick alla fine la convince. Nonostante il periodo storico che di solito non vede impiegati grandi mezzi scenici e tecniche sofisticate per la produzione, la lavorazione di Via col vento è estremamente complessa e travagliata. Selznick, d'accordo con la Mitchell, a cui ha promesso grandi cose, impiega uno sforzo economico e lavorativo fuori misura, impiegando circa 2 anni per riuscire a riprodurre sul grande schermo, oltre che una semplice storia d'amore, anche un fedele e completo affresco storico. L'impresa di certo è ambiziosa, ma per Margaret Mitchell, che ha ereditato gli insegnamenti di sua madre, non è questo il motivo di tanto successo. Forse perché in ogni donna c'è una rossella, cioè l'istinto di non rimanere remissiva sotto il giogo maschile. Dopo un'estenuante trattativa, Selznick compra i diritti di Via col vento per la somma record di $50,000. Subito dopo va alla Warner Brothers e chiede ai boss di aiutarlo nella produzione. Ma a causa di alcuni strascichi sulle scelte degli attori, questo accordo va a monte. Selznick, andando contro il parere dei suoi collaboratori che reputano l'impresa troppo rischiosa, alla fine sceglie di produrre il film da solo, trovando unicamente un accordo con la Metro-Goldwyn-Mayer per la distribuzione in cambio di una percentuale sui profitti. Selznick comincia a lavorare insieme a George Cukor. Ci mettono più di un anno per preparare tutto il necessario alle riprese. La sceneggiatura è una delle parti più travagliate. Dopo aver acquistato i diritti del libro, Selznick inizia a scriverla personalmente, ma nei titoli di testa viene accreditata a Sidney Howard, che di fatto ne è il principale autore, e che per completarla senza le continue intrusioni di Selznick è costretto a risiedere per un breve periodo di tempo al di fuori degli Stati Uniti. Ma oltre ad Howard e Selznick, sono 8 gli sceneggiatori che ci mettono le mani, tra cui lo scrittore Francis Scott Fitzgerald, anche se non compare. Tra sostituti, collaboratori e cambi improvvisi, Selznick arriva a pagare la sceneggiatura qualcosa come $126,000, a cui vanno sommati $50,000 per i diritti alla Mitchell. Come a dire che con una spesa di $176,000, Selznick non ha ancora neanche una scena girata. La scelta del cast non è meno tortuosa. All'inizio i due principali candidati a interpretare le parti di Rossella e Riet sono Bette Davis ed Errol Flynn. Ma i due non si sopportano e nel dubbio Selznick decide di cambiarli entrambi. È indeciso se contattare Clark Gable o Gary Cooper, ma sceglie definitivamente Gable dopo la malaugurante e poco lungimirante dichiarazione di Cooper. Via col vento sta per diventare il più grande flop della storia del cinema. E sarà Clark Gable a perderci la faccia, e non Gary Cooper. Gable sta divorziando. Deve dare a sua moglie $400,000. Non ce li ha. E così la sua paga è di $400,000 per il divorzio, più $120,000 per sé. Per il ruolo di Rossella vengono provinate 1.400 attrici, tra cui Katherine Hepburn, Joan Crawford, Paulette Goddard e Lana Turner. Alla fine restano Paulette Goddard e una sconosciuta Vivien Leigh. La leggenda vuole che la Goddard perda la parte perché non riesce a dimostrare che con Charlie Chaplin, con cui convive, è sposata. E questo va contro la morale rigida e puritana di Meyer, il capo della MGM. Neanche la Lee è sposata con Laurence Olivier, a dirla tutta, ma l'anno dopo, come promesso a Meyer, il matrimonio viene celebrato. Vivien Leigh viene consacrata alla storia nei panni di Rossella. Ufficialmente la regia è attribuita a Victor Fleming, ma durante la produzione si sono succeduti George Cukor e Sam Hood. Lo stesso Selznick, che da molti viene considerato il vero autore del film, ha avuto una forte presenza nella direzione, curando personalmente tutti gli aspetti del film, tra cui la scenografia, i costumi, la sceneggiatura, il montaggio e la scelta degli attori. Non è solo supervisione da produttore esigente, è un controllo maniacale ai limiti del capriccio. Tanto che sono molti, durante la lavorazione, a essere licenziati o a dimettersi perché stufi di dover sempre assecondare Selznick. Una cosa è certa, se questo film deve essere di qualcuno, questo qualcuno è di certo David Selznick. Siete uno sfrontato e un villano, andatevi! Perdonatemi se vi ho offesa con la violenza della mia passione, adorata Rossella, volevo dire cara Mrs. Kennedy. Ma non deve esservi sfuggito che da qualche tempo l'amicizia che nutro per voi si è mutata in un sentimento profondo. Un sentimento più bello, più puro, più elevato. Posso osare di chiamarlo amore? Alzatevi in piedi, non mi vanno gli scherzi volgari. Ma è un'autentica proposta di matrimonio fatta nel momento che mi sembra più opportuno. Devo cogliere l'occasione fra un marito e l'altro. Siete volgare e villano. Questo colloquio è durato anche troppo. E poi non mi risposerò mai. Ma sì, invece. Sposerete me. La prima proiezione di Via col vento avviene ad Atlanta, la città di Margaret Mitchell, il 15 dicembre del 1939. Il successo supera ogni aspettativa e l'incasso sfiora il milione di dollari solo nel primo weekend. La sala numero 6 del cinema CNN 6 Center di Atlanta lo proietta ininterrottamente due volte al giorno a partire dall'anno di uscita e in ogni paese, Italia inclusa, il successo si moltiplica. Mentre Selznick si gode gloria e denaro e sforna un film dopo l'altro con le star internazionali, la Mitchell, pur tempestata di richieste, smette di scrivere qualsiasi cosa. L'11 agosto 1949, un tassista ubriaco la investe con la sua auto. Muore pochi giorni dopo, senza essere mai uscita dal coma. Ma la sua anima vive e vivrà per sempre nella testarda e spiritosa Rossella che le assomiglia. In lei e in tutte le Rosselle sparse per il mondo.